Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Come avete sentito nel giornale radio, oggi riprendiamo ad occuparci comunque della diversità, della disabilità, delle persone con un tasso di debolezza maggiore rispetto al resto del mondo, non perché siano fisiologicamente condannati alla debolezza, semplicemente che sono persone che hanno alcuni problemi che impediscono una vita sociale, una vita professionale, una vita comunque con le opportunità e le chance che hanno tutti gli altri esseri umani. Questo non è civilmente giusto e accettabile, quindi Radio 24 per il secondo anno, cominciamo adesso, continua il suo impegno di tutti i giornalisti di questa radio di sentirci anche noi ogni volta che tocchiamo questi problemi disabili. Infatti noi abbiamo una casella di posta elettronica, anche noi disabili, @radio24.it, dove potrete ricominciare, visto che dopo la pausa estiva ricominciamo anche noi a occuparci di questi problemi, a mandare le vostre proposte, le vostre richieste, le vostre domande. Cerchiamo situazioni e persone in cui il principio generale di pari opportunità per tutti gli esseri umani di avere una vita dignitosa non è rispettato. Non siamo onnipotenti, non possiamo dire a priori che cambieremo le cose, ma possiamo comunque, per quanto possibile, fare il nostro lavoro, dare dei piccoli segnali. Uno di questi è quello che vorremmo oggi raccontarvi, che iniziamo con una storia legata al terremoto di cui tantissimo si è parlato. C'è stata una copertura mediatica potentissima dell'ultimo terremoto che ha toccato Umbria, Marche e Abruzzo, e Lazio, diciamo, parte del Lazio, anche l'Abruzzo, diciamo, le zone più colpite insistono nelle regioni appunto del Lazio e delle Marche. Ecco, detto questo, al di là di tutte le storie, avete sentito la notizia questa mattina che inizia il maltempo, come era prevedibile, iniziano i problemi per le persone che non hanno più casa, non hanno più un punto di riferimento, non soltanto fisico, non soltanto le vie delle proprie città, dei propri paesi, ma anche le persone che conoscevano, vivono al centro comunque di un'immensa tragedia. Tra queste persone, non è bello mai fare delle gerarchie tra gli esseri umani, comunque ci sono persone che vivono in maniera ancora più drammatica questo terremoto, sono le persone che hanno disabilità di vario tipo, disabilità di tipo motore, immaginate il problema di chi già ha difficoltà a muoversi in città, comunque sempre scarsamente attrezzate nelle barriere architettoniche, quando tutta la propria città è una barriera architettonica, quando è tutto crollato. Immaginate anche le difficoltà che hanno persone, noi partiremo con una storia legata a questa categoria, che hanno disabilità di tipo intellettivo, cognitivo, relazionale, in cui è già difficile capire sono infiniti motivi di ansia e di angoscia per loro già in una situazione di vita quotidiana. Immaginate una situazione in cui si perdono i punti di riferimento. Partiremo dalla storia di una famiglia di amatrice che aveva un bambino autistico che si trovava anche lei, come tutti gli altri, in situazioni precarie, senza casa, vivendo in situazioni di fortuna, e in presente per loro però si è creata un'opportunità. All'Aquila gli alloggi che erano stati costruiti per i terremotati dell'Aquila, ce ne sono tantissimi liberi, spalle 250 case libere, ha creato una sorta di link virtuoso fra chi è stato terremotato all'Aquila e conosce il problema dell'autismo e chi ad Amatrice si trova improvvisamente in una situazione non percepibile, non concepibile, senza precedenti. Beh, questo ha fatto sì che ben tre famiglie oggi, al di là del maltempo, sta colpendo le zone terremotate, stanno in tre comode case. Vi spiegheremo come, perché e come è avvenuto tra poco. 800 24 00 24. Melog, cronache meridiane. Cioè, evidentemente chi manda SMS a Radio 24 pensa di godere di una sorta di aura privilegiata in cui tutti possono dire quello che vogliono. Potete farlo chiaramente, ricordate che comunque rimane sempre ben visibile il vostro numero di telefono, potremmo chiamarvi ogni momento a rendere conto di ciò che affermate. Nicoletti, avete scassato la minchia con gli handicappati, ce ne fotte un cazzo. Questo è il primo SMS che mi è arrivato, questo per dare l'idea comunque che è ora che riprendiamo un contatto con il pubblico per renderlo un pochino più attento a quello che potrebbe accadere ad ogni persona, anche chi si sente forte, potente, di poterci mandare questo SMS. Roberta Galli, buongiorno. Buongiorno. buongiorno a te Gianluca. Allora, Roberta Galli, la prima volta ci sentiamo viva voce. Roberta Galli, abbiamo avuto un'intensa diciamo corrispondenza, prima via Facebook, poi via email, perché Roberta Galli è la madre che un giorno, nelle ultime settimane di agosto, lanciò un messaggio su Facebook: ci siamo una famiglia terremotata, viviamo in una roulotte, abbiamo un bambino autistico di 10 anni, per noi è particolarmente difficile. Da allora come sono cambiate le cose? Com'è la tua vita oggi, Roberta? La mia vita oggi è normale, vivo in un appartamento con tutte le comodità, con tutti i servizi, lunedì inizierà la scuola per i miei figli, che dire, un miracolo? Spieghiamo bene la questione, l'appartamento quanto in ordine di distanza dal luogo in cui avevate la vostra roulotte, vivevate, diciamo, condividevate la vita quotidiana ai terremotati, l'Aquila, cioè la zona dell'Aquila, diciamo periferica, in cui erano queste case, che erano le case che erano state costruite per i terremotati abruzzesi, quant'è, un'ora e mezzo di strada più o meno? No, di meno. 40-45 chilometri, un'oretta scarsa. Quindi sei a 45 chilometri dalla zona terremotata. Che tipo di soluzione hai trovato? Una casa del progetto Case, costruita per gli aquilani che hanno avuto la nostra stessa sorte, quindi completamente antisismica e totalmente sicura. In quante persone vi siete, diciamo, trasferiti in questo diciamo esodo da Amatrice? Nel mio nucleo familiare siamo in 3 nuclei familiari, poi ci sono altre 10 famiglie, credo che, ma stanno arrivando anche altri. Quindi diciamo la situazione d'emergenza nell'emergenza di un ragazzo autistico ha fatto sì che la tua richiesta di aiuto più che lecita, dice, questo bambino che comunque vive in maniera ancora più drammatica l'incertezza, la paura del terremoto, datemi una mano. Hanno risposto degli amici aquilani e hanno messo a disposizione innanzitutto per la tua famiglia 3 case contigue, in modo che sei spostata te, la famiglia di tuo fratello e i vostri nonni, mi sembra una decina di persone alla fine. Sì, esatto. Quindi una famiglia si è ricostituita, diciamo, nella situazione comunque precaria, comunque drammatica, in qualche maniera per ora il problema è stato reso attenuato rispetto a quello che sarebbe stata la tua vita. Cosa avresti fatto oggi se tu non avessi avuto questa chance? Ah, no, non ho idea, avrei continuato a vivere nel camper, ma non so in quale modo. Anche perché fa freddo adesso, già comincia a fare freddo. Tuo figlio in particolare, visto che il tema di oggi è le persone che più forte sentono la drammatica situazione del terremoto, come ha reagito al sisma e qual era il problema di gestione quotidiana che avevi rispetto a quelli che già potevi avere prima naturalmente? Ma in realtà rispetto proprio all'evento del sisma lui non credo si sia reso conto di molto, però lo sconvolgimento delle sue abitudini, dei suoi spazi, delle sue cose, quello ha contribuito tanto a renderci difficili le prime ore che abbiamo passato così in precarietà, perché poi l'appartamento è arrivato quasi subito, qui sono stati pochi giorni. Di quello che avevi prima cosa ti rimane? Amatrice. Nel senso materiale? Certo, concreto. Cioè, avevate un'abitudine quotidiana, una figlia andava a scuola, tuo figlio avrà seguito comunque anche lui, diciamo, penso, immagino, dei trattamenti, qualcuno che lo seguiva, avevate una casa, avevate delle cose, cioè non avete più niente di tutto questo? No, in realtà la casa strutturalmente ancora c'è, non sappiamo se è agibile, stiamo aspettando il sopralluogo. Per quanto riguarda Marco non avevamo praticamente nulla, non era seguito da nessuno perché qui sul territorio mancano le strutture, le persone competenti, eccetera. Invece all'Aquila cosa hai trovato? All'Aquila ho trovato, a parte tanta solidarietà, comunque per lui un nuovo percorso che probabilmente ci porterà poi a tanti miglioramenti, una terapia, un'assistenza domiciliare, un'assistenza scolastica, un insegnante di sostegno qualificata. Cioè tutte cose che non per colpa di nessuno, ma in un centro piccolo, al centro di Roma già è difficile trovare persone qualificate che seguano un ragazzo con delle neurodiversità, immagino che Amatrice possa essere ancora un po' più difficile. Impossibile. Senti, ma ti risulta che esistano altre persone nelle tue condizioni che ancora stanno ad Amatrice? Sì, c'è un'altra famiglia con un bambino, sempre con una diagnosi di autismo, che vive in un camper attualmente. E come mai loro non si spostano anche loro, visto che... Decisioni personali, non so bene per quale motivo. Ti sei posta la domanda, come mai tante persone stanno in questo momento vivendo una situazione molto precaria, molto difficile, e non possano seguire la strada che tu in fondo hai fatto da apripista. Tu hai dimostrato che quando c'è solidarietà reale, concreta, immediata, non che passa attraverso iniziative, parole, promesse, cioè delle persone ti hanno messo delle chiavi in mano, hanno detto se vuoi la casa c'è, ti hanno messo le lenzuola nel letto e per te ricomincia una nuova vita, perché non ne usufruiscono altre persone? Ma secondo te, è una, una domanda che ti faccio, mi domando. Non lo so, forse per la paura del cambiamento, forse per la speranza che qui possa rinascere in fretta qualcosa. Il sindaco dell'Aquila ha detto che qui ci sono 250 case ancora del piano case vuote, in perfetto stato, attrezzate, dove hanno vissuto gli aquilani che oggi hanno ripreso la loro casa legittima. Come mai vedo spostamenti nelle spiagge della Romagna, si parla di tendopoli, si parla di baracche che vengono costruite, come mai piuttosto che stare al freddo, alla pioggia, uno non fa 40 minuti di strada e non va intanto in una casa, secondo te? Ma forse scelte politiche, non ho idea di questa cosa in realtà. Però non mi sembra una domanda del tutto banale. Intorno a te immagino che stai vedendo in questo momento persone sofferenti. Perché... E sto anche cercando di convincerle, ma... Tu sei di Amatrice, cerca di farmi capire questa cosa, perché è una domanda che ci facciamo tutti. Quando io ho saputo, e adesso parleranno gli amici aquilani, che all'Aquila c'erano queste case, è stato immediato, tu hai messo il messaggio su Facebook, io in qualche maniera l'ho rilanciato attraverso i miei canali, mi hanno risposto all'Aquila, dice qua, se volete ci sono case pronte. Il giorno dopo già ti hanno messo le lenzuola nel letto, 3 giorni dopo verrete trasferiti in 10. State in una casa decente, non sarà la casa dei sogni della vostra vita, ma intanto... I tuoi figli vanno a scuola e tu vivi, no? Certo. Ecco, non è preferibile questo a star sotto una tenda o aspettare una baracca che te la costruiranno fra 6 mesi? Sì, infatti io la decisione l'ho presa immediatamente, non riesco a capire perché altre persone non prendano questa decisione, sinceramente. In questo momento dove sei te, fisicamente? Io fisicamente sono ad Amatrice in questo momento. Cosa sei andata a fare? Sono andata a fare le varie pratiche burocratiche per il sopralluogo nella mia casa, per il sussidio per l'autonoma sistemazione, tutte queste cose qui. In questo momento, diciamo, la casa non devi pagare affitto, non devi pagare nulla, sei una terremotata a tutti gli effetti, quindi è giusto, hai l'assistenza di poter avere il diritto di avere una casa, quindi non è che ti costa. Ecco, perfetto, questo è già un fatto in più. Giustamente stai facendo tutte le pratiche, saranno pratiche lunghe, dovranno fare un sopralluogo, vedere se la casa va messa in sicurezza. In ogni caso, ammesso che la tua casa non debba avere nessun tipo di intervento, dovresti andare a vivere in una casa che intorno non c'è più nulla. Esatto. O sbaglio? No, quindi, non sbagli. Quindi se casa tua per assurdo non sarà mai agibile al 100%, comunque qualcuno dovrà metterci le mani, comunque dovrà essere fatto un progetto, comunque il progetto dovrà passare attraverso degli iter molto rigorosi, perché figurati, bisognerà assolutamente... Passeranno mesi se non anni prima che tu possa rimetter piede a casa tua. Questo mi sembra, non dico una cosa, lo so perché ci sono passato anch'io. Certo. Quindi una casa comunque sarà comunque lesionata. Ammesso che tu ci possa andare ottimisticamente fra un anno, 2 anni, intorno ci sarà un paese ancora da ricostruire. Di fronte a questa prospettiva, ti rifaccio la domanda. Mi dici hai qualche elemento in più per capire perché le persone anziane, deboli, l'altra madre con il figlio autistico che probabilmente avrà anche lui dei problemi, non dicono beh intanto andiamo all'Aquila, 40 minuti di strada, poi vediamo, perché non fanno questo passo? Io no, perché forse non hanno ben chiara la situazione, nel senso non riescono a capire che queste cose poi alla fine saranno abbastanza lunghe, che le promesse che fanno i vari politici a livello sia... alto che anche il nostro sindaco danno tempi brevi, ma che in realtà secondo me non sono fattibili. Arriverà il freddo forte, tu conosci il posto, prima o poi l'Amatrice, prima che arrivi qua. Già li fa la mattina. 9 gradi la mattina è freddo, quindi stare diciamo in roulotte, in tenda o anche in un camper non è certo piacevole. Ma infatti io credo che non appena si renderanno bene conto della situazione in tanti faranno poi prenderanno questa decisione, me lo auguro. Allora Roberta, intanto fai la tua fila, se no ti facciamo perdere tempo per pratiche importanti. Se ci servirà ancora, tu dovrai dirci qualcosa, ti chiameremo fra un po'. Dario Verzulli, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, buongiorno, solo come introduzione, poi diamo le informazioni del traffico, cosa dobbiamo dare, e poi dopo riprendo con te. È presidente di Autismo Abruzzo Onlus, è la persona che materialmente un giorno mi ha chiamato e dice: Gianluca, sto andando a prendere le lenzuola e le federe, di a queste persone che possono venire. Tu gli hai attrezzato le case. Quante case sono disponibili? Comunque, a pronta consegna, chiavi in mano, secondo te, di quelle che usavate voi quando eravate terremotati, diciamo al 100%, ecco. Dunque, c'è una comunicazione nelle prime ore della giornata dopo il sisma da parte del nostro sindaco Massimo Cialente, che ha messo a disposizione 250 abitazioni. Sono per la maggior parte appartamenti dei progetti case che hanno una, diciamo, un'ampiezza di 60-70 metri quadri, e sono anche una minima parte anche dei MAP, che sono delle strutture che sono comunque temporanee, ma che comunque in alcune situazioni sono ancora in buono stato. Sono tutte case totalmente antisismiche, quindi in piena sicurezza. Sono totalmente antisismiche, sono totalmente arredate, non hanno, hanno svolto egregiamente la loro funzione, sono salite agli onori di cronaca per dei difetti, per delle problematiche. E quelle sono cadute i balconi, diciamo, in qualche caso. Esatto, ma sono la minima parte. Una cosa che io dico sempre a tutte le persone che conosco, che incontro con la nostra vita, la nostra esperienza, è che gli appartamenti dei progetti case sono 4.800 e sono dislocati in 19 aree della città. Sono prossime alla città o all'interno della città, non sono molto distanti. Secondo te quanti ce ne sono liberi, al di là di 250 che ha detto Zin? Allora, la comunicazione, ho visto i dati, il nostro comune ha una pagina pubblica dove aggiorna mensilmente i dati, e ad oggi gli appartamenti disponibili sono circa 500, cioè 500 sono quelli sicuramente utilizzabili. Poi credo che ci sia un altro dato relativo a quelli che hanno bisogno di piccole manutenzioni o comunque delle ristrutturazioni per problemi di vario tipo, ad esempio i balconi, che sono considerati a parte. Però di 500 non sarà. Un'ultima domanda, 500... poi diamo la linea. Sì. Mi serve questa risposta, così fa riflettere nella pausa. Qual è stata la procedura per ottenere la casa da parte di Roberta Galli? Una procedura lunga, tu già hai messo poche ore, è per tutti così, sarebbe? Sì, allora dunque la procedura è banale ed è sostenibile se si conoscono i meccanismi e le modalità. L'esperienza del 2009 a noi e l'esperienza dell'autismo ci ha permesso di fare quello che normalmente una persona può fare in una settimana, l'abbiamo fatto in una giornata. Quindi la conoscenza e l'esperienza può agevolare. È un meccanismo, cioè sono dei vantaggi che ti permettono di fare in breve tempo. Ci ha aiutato anche molto la conoscenza del territorio, dei funzionari, dei dirigenti, la sensibilità della città, perché il dramma del 2009 è ancora nel nostro DNA, e quindi tutta la città si è mossa a sostegno e aiuto di queste persone. Allora fermati un attimo, Dario, è chiarissimo, mi fermo solo un istante e riprendo con te proprio fra un minuto. La comunicazione è questa: per un episodio fortuito di una signora che aveva un figlio disabile, che ha avuto una necessità o ha avuto almeno il coraggio, la voglia di dire aiutatemi, non voglio più, non posso rimanere con mio figlio, si è attivato un meccanismo virtuoso. Gli altri aquilani, terremotati, che conoscono la disabilità, conoscono le procedure, che hanno messo a disposizione tre case immediatamente occupate da tre famiglie. Ci dice Dario Verzulli, è una cosa semplice, abbiamo gli strumenti in mano. Ci sono da 250 case, che dice il sindaco, a probabili 500 case disponibili. Mi domando ancora, qualcuno spero che mi risponda, perché parliamo di baracche, di case di legno, di tendopoli, di freddo che arriva. 800 24 00 24. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su rds.it. Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24. Oggi abbiamo fatto una trasmissione che è partita e proseguirà parlando dei problemi ulteriori che hanno delle persone con handicap in situazioni di terremoto, però abbiamo anche fatto una piccola scoperta. Abbiamo fatto una domanda generale a cui spero qualcuno ci risponda, come la nostra amica Roberta Galli è riuscita a ottenere grazie alla rete solidale delle persone con autismo che sono mosse subito, abitazione immediata a 40 minuti dalla sua casa terremotata da Amatrice, visto ce ne sono da 250 a 500 di case libere costruite apposta per i terremotati che agli aquilani non servono più perché se Dio vuole hanno ripreso possesso delle loro case, com'è Amatrice qualcuno invece che stare sotto la tenda, seguire i bollettini che ogni giorno sta per arrivare il freddo, il gelo e la pioggia, intanto non pensa di trasferirsi all'Aquila. Mi rendo conto, non è una passeggiata, ma piuttosto è stare in un posto in cui si sta con i piedi a mollo e si aspetta la costruzione di baracche, mi sembrerebbe semplice e logico. Ci dice Roberta Galli, non riesco a aprirlo nemmeno io. O mentalità, o perché aspettano qualcosa, o perché hanno avuto promesse, quindi rimangono in quel territorio. Stavo parlando con Dario Verzulli, che ricordo presidente di Autismo Abruzzo Onlus, che è una persona abituata a muoversi perché ha vissuto il doppio dramma dell'essere terremotato e di avere una figlia autistica, dover gestire alcune famiglie con questo problema. Dario Verzulli è stata la persona che materialmente ha creato questa sorta di link virtuoso. Riprendo un attimo con Dario Verzulli perché vedo che i messaggi che mi arrivano tutti dicono, ma sì, sai, saranno delle pratiche lunghe, difficili e farraginose. Per quanto sia lungo una pratica, secondo me le case ci sono. A Roma vengono occupati interi palazzi da persone che entrano, forzano la porta e poi non escono mai più. Mi sembra difficile pensare che... quanti sono i terremotati, del nuovo bacino Lucoli, Amatrice, Dario, più o meno? Gli sfollati, le persone che non hanno casa. Credo di 2.500-3.000 persone sono gli sfollati, l'area del sisma era di 10.000 persone, se ricordo bene. E voi quanti eravate invece gli sfollati all'Aquila? Tanto per capire. Gli sfollati all'Aquila, l'area cratere, gli sfollati, cioè il bacino d'utenza era di 100.000 abitanti, gli sfollati erano 60.000. Ecco, quindi sono cifre che in confronto fanno tremare i polsi. Sì, no, non è assolutamente paragonabile, però questo dovrebbe far riflettere il fatto che essere riusciti con tante difficoltà e alcuni errori all'epoca a secondare o comunque a dare le giuste risposte a un'intera comunità di questi numeri, dovremmo essere in grado di poter dare le giuste risposte anche all'area colpita dal sisma. Ecco, tu dove conosci bene, poi parliamo anche del problema più specifico degli autistici, ma visto che in questo momento abbiamo sollevato un problema di ordine generale, tu pensi che un uso quasi un'economia di scala, lì le case sono pronte, sono state costruite, hanno le caratteristiche antisismiche, sono vuote, sono disponibili, perché secondo te da abruzzese, quindi conosci bene anche le persone a te limitrofe, non c'è questa sorta di immediato esodo delle persone, dice intanto andiamo lì e stiamo con i piedi asciutti, poi vediamo, qualcosa succederà? Perché mi sembra strano che questa cosa che nasce fortuitamente per una sorta di catena di solidarietà tra famiglie di autistici non diventi un modello anche per le altre persone. Non accade, o comunque accade con difficoltà, perché a mio parere scontiamo una difficoltà comunicativa o comunque una errata comunicazione. Amatrice dista 45 minuti, 50 minuti dall'Aquila, però le persone, con la stessa Roberta Galli con cui abbiamo parlato a lungo prima del suo arrivo e anche dopo l'arrivo, è stato difficilissimo farle comprendere che all'Aquila esistono delle vere e concrete case che sono perfette, che hanno delle piccole difficoltà dovute a delle manutenzioni che vanno fatte. Ma non tutte, però, non tutte. Ma sono funzionalmente utili, molto utili, sono accoglienti, sono calde, sono comode in alcuni casi, sono dislocate in tutti i luoghi. Sono nuove poi, sono case che avranno quanto? 5 anni? Quanto hanno? Quando Roberta ha compreso questo ed è venuta a vedere, ha visto un mondo che per lei era sconosciuto e sapere e scoprire che le persone che vivono a un'ora di distanza da noi erano ignare di tutto questo, mi ha, in un certo senso anche... molto colpito. Infatti si è portata alla famiglia dei nonni, alla famiglia del fratello, giustamente, esatto. Visto che le case erano disponibili, non rubano nulla a nessuno, anzi, dovrebbe essere gli apripista di una sorta di operazione virtuosa. Arriveranno le casette di legno, arriveranno la ricostruzione, sì. Ma nel frattempo perché la gente deve stare al freddo dentro le tendopoli quando ci sono le case a 40 minuti? Questa è la domanda che mi faccio. La domanda è, a questo si aggiunge il fatto che nelle tendopoli, nel luogo del terremoto, grazie anche all'esperienza che abbiamo vissuto noi nel 2009, le informazioni arrivano frastagliate, confuse, contrarie l'una all'altra, non c'è un sistema di comunicazione efficace e c'è anche la disperazione che ti investe, ti sopprime, quindi è difficile essere lucidi. La Roberta Gaglio non a caso ha colto l'opportunità, perché le famiglie che hanno una disabilità, che hanno una difficoltà concreta, sono costrette a cogliere con meno tempo e più rapidamente possibile le opportunità. Tu hai parlato, cioè, Dario, con un'altra famiglia che ha un ragazzo autistico, che sembrava la cosa più scontata che si spostasse. Secondo te perché fanno resistenza e non si vogliono spostare? Abbiamo parlato a lungo anche con l'altra famiglia, tra l'altro entrambe le famiglie sono oggetto di un'azione di solidarietà marcata da parte di diverse associazioni, fra cui voglio ricordare quella della Sardegna, che stanno raccogliendo dei fondi da destinare proprio a iniziative, a servizi a favore di questi bambini e delle rispettive. Adesso diranno che si è mossa la lobby degli autistici, pensa un po'. Però è giusto che sia così, intanto certo, ne esistono tanti, aiutati che Dio ti aiuta, intanto ci stiamo aiutando fra persone che hanno lo stesso problema. Sì. Allora, la difficoltà maggiore della famiglia dell'altro bimbo è che loro non riescono a trovare la forza per il cambiamento e hanno timore di cambiare, hanno timore di perdere qualcosa lì e non sanno a che cosa vanno incontro, quindi loro devono prima metabolizzare ciò che è possibile ottenere qui e devono comprendere che lì, abbandonando la matrice, non perdono comunque nulla, i loro diritti sono inviolati, non cambierà nulla, quindi quello che le spetteranno rimanendo da matrice sarà esattamente quello che spetterà Roberta Galli, che vive all'Aquila. Cioè, come l'idea che il giorno che verrà il grande distributore dei benefici del terremoto, se tu non ci sei qualcun altro ti frega e perdi i tuoi diritti di riavere la casa, di riavere la ricostruzione, questo è un po' l'idea. Questo è quello che è accaduto anche all'Aquila nei primi tempi, però dopo qualche settimana, dopo qualche mese, per alcuni è stato necessario anche mesi, il flusso di spostamento verso la costa, verso gli hotel o verso altre località è comunque partito ed è stato costante nel tempo. Cioè, mi chiedo come adesso le persone vengono spostate in degli hotel lungo la riviera romagnola, adesso non mi ricordo bene, lungo la riviera del Tronto, e non vanno nelle case, cioè stare in una casa al mare in stagione autunnale è una cosa da suicidio, secondo me. Allora, questo è una bellissima domanda che andrebbe posta a chi ha preso questa decisione o chi ha... Cioè, lì i figli non vanno a scuola, gli anziani non hanno assistenza. Quando fu fatto nel 2009 la necessità di dare una sistemazione dignitosa a 60.000 persone, chiaramente richiedeva tutto il disponibile, quindi anche gli hotel, quindi era una sorta di obbligo. Qui adesso sembra più strumentale che non proprio la soluzione più logica, però è pure vero che le località come Accumoli, Arcata del Tronto, tutte quelle che stanno nel Tronto sono fisicamente leggermente più vicine alla costa che non alla parte aquilana, però la parte di Amatrice potrebbe sicuramente trovare migliore utilità in questa zona. Tra l'altro le scuole ci sono e sono sicure, perché oltre ai progetti casa, nel sisma del 2009 furono realizzate 37 edifici antisismici provvisori, i famosi MOSP, che assicurano a tutti i ragazzi e bambini delle elementari e delle medie la massima sicurezza possibile. Infatti la sorella maggiore del piccolo Marco autistico si è iscritta a un liceo, mi pare. Esattamente, sì. La sorella di Marco, Martina, andrà al liceo, che è una delle scuole erano già esistenti prima, non hanno un nuovo edificio, ma insomma sono controllati e sono edifici sicuri e danno la sicurezza che serve ai ragazzi e alle famiglie. Cosa che nessun'altra sistemazione l'avrebbe permesso, quindi non ha nemmeno interrotto la scuola. Fermo, ci fermiamo un istante, devo ridare ancora nuovamente la linea, poi riprendiamo con Verzulli ma anche con Marco Valenti, che ci spiegherà esattamente come hanno messo a punto un protocollo dall'esperienza negativa del terremoto. Comunque chi studia i problemi della disabilità, della neurodiversità, ha messo a punto una procedura, come ci si comporta in caso di terremoto con persone che hanno qualche problema in più rispetto agli altri. Tra poco. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago 8-11 settembre. Vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, stiamo parlando di un episodio, secondo me esemplare, delle persone che di mestiere, per necessità o per scelta professionale, si occupano di disabili, hanno offerto una chance alle persone terremotate che hanno questo problema in famiglia Abbiamo scoperto da questa chance, esisterebbe una chance più generale anche per il resto dell'umanità terremotata, di andare in comode case costruite apposta per accogliere terremotati. Ce ne sono da 250, che ha detto anche il sindaco Massimo Cialente, dichiarandolo subito, abbiamo 250 case, ma ci dicono gli aquilani che sono molti di più, potrebbe essere addirittura 500. Ma le persone non ci vanno, rimangono ad aspettare che qualcuno porti loro qualcosa sotto la tenda, che costruiscano delle casette di legno nel giro di 6 mesi, o qualcuno li trasferisca, una sorta di esodo verso le casette riva al mare. La risposta ce la dà un ascoltatore, dice: la verità è che in quelle case le ha costruite Berlusconi e non si può dire. Sì, è vero, sono le famose case della bottiglia di spumante, del panettone, via dicendo, sulle quali è stata costruita comunque una epica politica, ma a parte che tempo passato, a parte che le case ci sono, potrebbe anche essere questo che nessuno ha voglia di ritirare fuori, che in realtà le case costruite da Berlusconi oggi risolvono il problema. Marco Valenti, buongiorno. Professor Marco Valenti. Non lo riusciamo a prendere, vediamo se c'è invece Roberto Museo. Sì, buongiorno a tutti. Ecco, mentre rintracciamo il professor Marco Valenti, che ricordo il direttore del centro di riferimento regionale autismo dell'Aquila, è quello che scientificamente ha messo a punto un protocollo per il trattamento di persone con neurodiversità in caso di terremoto. Invece Roberto Museo è direttore del coordinamento nazionale del centro di servizio per il volontariato. Anche lei terremotata, naturalmente, perché parliamo di persone che il terremoto l'hanno anche conosciuto sulla propria pelle, non soltanto studiato nei libri e nei giornali, no? È proprio così. Nicoletti, buongiorno a tutti. Buongiorno. Certo, non ho il coraggio di Dario Verzulli, che saluto, amico di tante battaglie all'Aquila. Io sono aquilano e quindi so benissimo, e vi ascoltavo di quello che diceva. Se mi permette anche di rispondere a questo ultimo messaggio che lei diceva, non bisogna dire che le case sono di Berlusconi. Io ho seguito con attenzione questa vicenda della famiglia che avete raccontato, e credo con emozione che bisogna però uscire a volte da queste logiche per cui si strumentalizza ogni terremoto da elementi di natura politica, perché fanno male alle persone, a quelli che restano e penso anche alla memoria dei morti. Ma c'è, secondo lei, scusi, adesso, visto che l'ascoltatore ha sollevato la malizia, non desiderio di voler far passare la cosa che le case di Berlusconi oggi sono ancora disponibili, potrebbero servire ai terremotati su cui si è creata naturalmente anche un'altra epica, e come giustamente la politica poi su ogni cosa trova spunto di sopravvivenza. Può esserci un pochino nascosta anche quest'idea? Guardi, prima di questa comunicazione dell'ascoltatore, a me personalmente non sarebbe mai venuto. Ma nemmeno a me, onestamente, me l'ero già dimenticato. Però posso dire che personalmente non ho condiviso, l'ho detto in altre interviste, che quella doveva essere una strategia in quel periodo per la nostra città, ma non entriamo in quella. Oggi dico soltanto che ci sono delle case, e che lei ha detto perfettamente che è illogico che alcune persone non sfruttino questa opportunità, soprattutto per il bene dei propri figli e dei propri familiari. Quello che più mi ha colpito è che, leggendo appunto le interviste su Roberta, cioè si è dovuta sentire in un certo momento in colpa che lei lasciasse Amatrice, e qualcuno gli aveva detto che non aveva rispetto dei morti. L'ho scritto io, a me lo disse, dice, qualcuno mi ha detto, dice, ma come ti permetti di dire che ha il figlio autistico? Prima cosa, perché già questa era una vergogna. Seconda cosa, non è rispetto dei morti che hai chiesto la casa per tuo figlio. Ora, una madre per il figlio la casa la chiederebbe anche passando sui corpi degli altri, questo è comprensibile, ma non c'è nulla di male, anzi. Roberta ha aperto una strada di saggezza, di lucidità rispetto al resto del mondo, o sbaglio? Assolutamente condivido, io spero, e vi ringrazio da parte tua, anche di altri che hanno raccontato al mondo attraverso i media questa sua scelta, perché è una scelta che innanzitutto unirebbe le sofferenze di popolazioni che hanno vissuto la stessa situazione. Poi darebbe un senso anche alla vostra esperienza, perché voi vi siete fatti le ossa, avete imparato un metodo di gestione, non è che avrebbero le chiavi in mano e il deserto intorno, avrebbe una struttura pronta ad accoglierli. Assolutamente, come appunto l'esperienza di un Dario e del professor Valenti, che adesso sentiremo. Ah, l'abbiamo rintracciato, fermo lì un attimo. Professor Marco Valenti. Sono in linea. Ecco. Allora, professor Valenti, lei ha compiuto un'operazione encomiabile dal punto di vista scientifico. Ricordo, direttore del centro di riferimento regionale autismo dell'Aquila. Il giorno stesso del terremoto lei ha comunicato subito, anche lei su Facebook: noi siamo a disposizione, se c'è qualcuno che ha un problema in più, siamo qua. Cosa avete capito voi dalla vostra esperienza di terremoto e soprattutto quale protocollo avete tirato fuori che potrebbe aiutare anche le altre persone, anche non soltanto quelle con neurodiversità conclamata? Buongiorno. Buongiorno. Grazie intanto di questa trasmissione dell'interessamento alle nostre iniziative. Ma noi abbiamo fatto tesoro dell'esperienza con l'autismo qui all'Aquila del 2009, perché ci siamo resi conto sulla pelle, naturalmente, non soltanto degli utenti, delle loro famiglie, ma anche degli operatori, che in circostanze eccezionali, quali sono quelle di una emergenza, di un disastro di natura naturale o ambientale, le risposte per alcune popolazioni con bisogni speciali devono essere urgenti e speciali. Una famiglia con autismo ha bisogno immediatamente di essere presa in carico in rapporto alla specificità della sua situazione, non può finire nel calderone generale dell'assistenza, per quanto ottima, per quanto di qualità, riservata semplicemente alla popolazione generale. Le anche per scusi Valenti, nello specifico sì. di Roberta ha trovato un trattamento in regola con quelle sono le linee guida per trattare l'autismo che se lo sarebbe sognato dove stava. Non esiste manco a Roma una presa in carico così specifica. È stato un paradosso che il terremoto per questa famiglia ha aperto improvvisamente delle opportunità che avrebbe dovuto avere in condizioni normali nella gestione della propria vita quotidiana, invece le trova nella gestione di un'emergenza. Ma d'altra parte questa della presa in carico delle persone con autismo è una problematica di livello nazionale che insomma io conosco decine se non centinaia di famiglie romane che darebbero qualunque cosa per essere prese in carico nella stessa maniera. Ecco, posso dire con orgoglio che insomma Marco è entrato nella nostra struttura di rete riabilitativa già da lunedì, insomma viene seguito da operatori specializzati. Credo sia un momento particolarmente significativo, importante. Ecco, allora, professor Valenti, visto lei che è anche un conoscitore delle difformità o delle diversità della psiche umana, secondo lei perché a Amatrice non si pongono il problema di venire lì? Qualcuno mi scrive, ma li volete sparpagliare per l'Italia? Appoggiarli a 40 minuti da casa loro? Non lo so. Sì, ho sentito qualche commento prima condivisibile. In realtà, soprattutto nelle prime settimane, nel primo mese dal sisma, passano delle strane parole d'ordine, del tipo chi rimane ha diritto a qualcosa, non andate via perché sennò si perde l'identità, eccetera. Poi queste cose nell'arco dei mesi successivi svaniscono e giustamente le persone cominciano a guardarsi intorno e interrogarsi se per caso non sia necessario trovare delle soluzioni alternative, perché chiaramente il modello della tendopoli non può funzionare. Credo che Errani lo abbia detto chiaramente, che andranno sbaraccate nell'arco di un mese, non di più, perché tra un mese che faranno? Perché in un mese non costruiscono le casette di legno. Chiaramente tra un mese accadrà quello che è logico, cioè che le persone verranno spostate piaccia o non piaccia loro. Allora guardi Marco Valenti, la sigla ci porta via. Abbiamo sacrificato il suo tempo. Torneremo su questo argomento, che io spero da questa trasmissione qualcuno senta, e se avremo segnale che qualche altra persona da Amatrice sceglierà questa soluzione che mi sembra la più razionale, la più logica, ridaremo visibilità a quella che è la fatica degli amici abruzzesi. Alla prossima.